800240024 0024. Gabriele, mangerai tutte le vaccate possibili. Marzia, saluterai tutti e farai una cosa che nella vita non ho mai fatto: prendere un aereo. Marzia, io direi che anche se di ore davanti ne hai ben più di 12, prenotati un volo. Claudio, amaca, sole, barriera corallina, caipirinha e un telefono. Guarda Claudio, io per quanto astemio posso capire tutto: l'amaca, il sole, la caipirinha, ma il telefono? Sì, va bene che farai delle telefonate. Vabbè, Marzia, andrai in spiaggia, mi metterai davanti al mare. Si dividono in due categorie più o meno: quelli che vanno in spiaggia e quelli che invece vanno dai figli, dai genitori. Marco, passare il tempo a distruggere i miei cellulari, il memory card comprese, per evitare che qualcuno scopra la mia seconda vita. Esatto, anche se poi sono finite dopo 12 ore, chi se ne frega. Francesca, andrei in acqua con il mio compagno e i miei tre figli. E questa le ha unite invece, ha messo insieme la spiaggia e i figli. Grande Francesca. Andrei in acqua con il mio compagno e i miei figli e cercherei di prendere insieme a loro più onde possibili. Ah, no, ma ho capito perché. Scusa Francesca, l'ho capito adesso. Perché Francesca sul suo profilo Facebook ha come profilo una foto di lei col windsurf, col surf, quindi credo che sia una surfista. Marco, Andrea Capri con la barca a vela. E vabbè, 800240024 è per telefonare oppure per chiamare in diretta, per mandare un sms 349-238-6666. Sono le vostre ultime 12 ore di vita, cioè non ve lo auguro, però facciamo come se fosse, ok? Altrimenti poi arrivano le madonne. 349-238-6666 800240024. Vi ricordo anche che giovedì 12 maggio, cioè tra meno di un mese, beh, molto meno di un mese, 3 settimane, siamo in diretta al Salone del Libro di Torino. Prenota, non c'è da prenotarsi, semplicemente venite. Non ci sono i puff, ma abbiamo visto un rendering della postazione della D24. Ci sono un sacco di sedie da riempire e portate con voi quel racconto che vi racconta, di cui vi leggerò alcuni estratti, di alcuni che sono arrivati più tardi, perché prima il sogno, le mie ultime 12 ore. Stanotte ho sognato che era il mio ultimo giorno di vita, che avevo 12 ore per rimettere a posto tutto, per fare i conti col mio passato, per andare dalle mie fidanzate precedenti e salutarle, per guardare ciò che ho fatto nella vita e metterci sopra un visto, anche per controllare se avevo chiuso la porta di casa. Era un sogno angosciante, perché il tempo era poco e le cose da fare moltissime. E in più, la fine sarebbe arrivata insieme con il sonno, ed era deciso che io dovessi andare a letto a mezzanotte, che è pure presto per me. Non si poteva fare alle 2 come al solito. Vabbè, insomma, era un sogno stupido. Un sogno che mi ha fatto svegliare in un bagno di sudore. Forse anche perché mi ostino a tenere le coperte di lana, anche se ormai è arrivata l'estate. Un sogno che mi ha fatto pensare che avere un vicino di casa psicoterapeuta può tornare utile ogni tanto. Però, chi lo sa, vai a sapere. Avevo letto che erano sistematici, insomma, non mi ricordavo neanche la sua corrente di formazione. La psicologia è una cosa complicata. Chi lo sa, magari è uno che dei sogni non gliene frega niente. Un cognitivista, un comportamentista. Poteva essere un programmatore neurolinguistico, uno psicodinamico, un counselor, un adleriano, un fenomenologo. Poteva anche essere un terzino destro, per quanto ne sappia io di psicoterapia. E allora per la seconda volta ho fatto quello che si deve fare in questi casi: google.it. Il dottor Salvati è docente di psicologia dei comportamenti, ma tra le pieghe del suo curriculum si capisce che per i suoi pazienti usa un sistema junghiano, che non so cosa significhi, ma di certi sogni gli piacciono. Tra l'approccio di Jung e quello di Freud, che era il suo maestro, esistono molte somiglianze. Certo che, di fatto, la cura dell'anima del mondo occidentale stia nelle mani di pensatori nati e cresciuti solo tra la Cecoslovacchia, l'Austria e la Svizzera, un po' mi inquieta, non so perché, ma un po' mi inquieta. Però, vabbè, chi se ne frega. Leggendo un po' di Wikipedia ho capito che Freud ce l'aveva più con il sesso, Jung invece con il passato. Che Freud dava molto peso a quello che incontri dopo che sei nato, mentre Jung pensava che vieni al mondo già con un carattere. Che Freud era più vecchio, Jung più giovane. Che Freud aveva il pizzetto e Jung preferiva i baffi. Tutti e due credevano che i sogni fossero un momento importante, ma solo Jung pensava che fossero davvero la voce del nostro inconscio, il libro di storie scritto dalla nostra anima. E io di sogni ne faccio moltissimi, e mica sempre tremendi come quello di stamattina. Anzi, a volte mi sveglio ridendo, perché come si fa a essere così assurdi da credere che tutte le soluzioni dei miei problemi siano giocare a battaglia navale? Sì, Questo è il sogno che ho fatto l'altra notte. In quel sogno stavo guardando su YouTube un corso per combattere la raucedine e a un certo punto una voce mi diceva che per stare bene io dovevo fare il bruco, e fare il bruco nel sogno voleva dire giocare a battaglia navale. Non chiedetemi cosa sto dicendo perché non lo so, era un sogno e basta. Ma quando mi sono svegliato mi sono detto: ma che vaccata, fare il bruco e giocare a battaglia navale sono due cose diverse. Ecco, adesso mi è venuta voglia di fare un paio di domande al dottor Salvati. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roll and bitch for you. Keep your mouth shut. Ieri pomeriggio, dopo la puntata, ero talmente intrippato a cercare di autoanalizzarmi che sono andato a comprare un manualetto dal titolo Chi sei veramente? Come interpretare i tuoi sogni. Non l'ho ancora aperto perché, a parte quello del bruco, non avevo tanti sogni da analizzare. Allora mi sono messo sul divano e ho cercato di obbligarmi a dormire per poter sognare e quindi poi analizzarmi. Ovviamente non solo non ci sono riuscito, anzi, mi sono talmente innervosito che ero sveglissimo. Però mi sono venuti in mente alcuni sogni passati. In uno, ad esempio, giocavo a pallacanestro con i miei compagni della squadra di calcio. E non solo loro sapevano giocare anche a pallacanestro e io invece no, ma nella mia squadra eravamo tutti bambini intorno ai 5-6 anni, mentre loro erano adulti come sono oggi nella realtà. E giocavano come se fosse una finale NBA. A me sembrava strano nel sogno, però comunque ci provavo. Certo, siccome ad altezza non eravamo messi bene e gli arrivavamo in media alla cintura, la partita non ha avuto storie. Poi c'è anche quella volta in cui ho sognato che giocavo a poker con Tiziano Bonini e altri due. Io nella realtà non so nemmeno le regole del poker, giusto così per precisare. Nel sogno però sì. Eravamo in una stanza fumosa, poco illuminata, e tutte le carte erano rosse. Non esistevano i semi, picche e fiori, per farla breve. C'era molta tensione. Poi io ho raccolto da terra una donna di quadri, l'ho messa tra le mie carte e ho vinto. Ho barato, era chiaro, però nessuno se n'era accorto. Oppure se se ne erano accorti nessuno aveva detto niente. Insomma, di sogni ne avevo abbastanza, per non parlare di quello in cui avevo pilotato un Boeing con 143 passeggeri e in un atterraggio d'emergenza proprio nella piazza principale della città proibita, a Pechino, nel XVI secolo. Poi diventavo l'imperatore e dicevo a tutti che, visto che quello era rotto, adesso io tornavo a casa a piedi e presto li sarei andati a riprendere con un aereo nuovo. Ecco, preso da questa nuova inutile passione per i sogni fatti in passato che riaffioravano alla memoria, ho iniziato a scriverli per non dimenticarli più. L'ho fatto su un quaderno blu, uno di quelli che qualcuno senza fantasia mi aveva regalato qualche anno fa. E mentre scrivevo mi suona il campanello alla porta. Che è quello che non suona mai, perché quando viene qualcuno a trovarti suona il citofono e tu la porta di casa la lasci già semiaperta. Quindi il campanello della porta che suona è strano da sentire. Deve essere qualcuno che in questo palazzo ci abita già, un vicino. Magari il dottor Salvati, ho pensato. E invece no, era Ettore. È un bambino che avrà circa 7-8 anni, dalla faccia arrabbiata e le guance rotonde, che sta lì in piedi di fianco alla mamma che ha appena finito di suonare alla mia porta. La mamma è Paola, una vicina che conosco appena, ma che aveva fatto amicizia con Natalie prima che lei partisse per Tbilisi. Ha l'aspetto sciatto di chi non aveva in programma di uscire e quindi capisco che si tratta di un'emergenza, perché le donne non amano farsi vedere quando non sono in forma accettabile. Però non c'è grande tensione sulle loro facce, quindi mi tranquillizzo. Paola si scusa subito tantissimo e mi dice che non sapeva che Natalie non fosse in casa e che cercava lei per un piccolo favore. Io le dico che se posso essere utile, chieda pure a me. Paola è un po' imbarazzata, però si vede che non ha molte altre alternative. Dunque, suo marito, o il suo compagno, tant'è Fabrizio, è rimasto in panne in mezzo alla strada. Perché, e se ne vergogna un po', ha chiuso le chiavi dentro la macchina. È una cosa che non pensavo che potesse succedere ancora a qualcuno. E siccome non hanno fatto l'assicurazione stradale plus, quella che ti vengono a salvare sempre e ti offrono pure un caffè, ha chiamato a casa per farsi venire a prendere con le chiavi di riserva. Ci metterà 20 minuti, dice Paola, perché ci va in motorino, e se io posso tenere Ettore, loro mi saranno eternamente riconoscenti. E chi sono io per rifiutare un favore a una mamma? Quindi guardo Ettore e gli dico: vieni, dai, ti piace la TV? Lui tace e io lo prendo come un sì. La mamma spalanca gli occhi terrorizzata, ma si vede che non ha scelta. Tranquilla Paola, non c'è problema, nessun disturbo. La saluto e chiudo la porta. Fate pure con comodo, tanto non stavo facendo niente di importante. Poi mi giro, guardo Ettore. Ciao, io mi chiamo Matteo. Ecco, così è cominciata la mia serata di ieri. 800240024 349-238-6666. Poi di Ettore vi parlo con più calma, perché Ettore è un altro piccolo universo da raccontare. 349-238-6666 invece per chiamare in diretta. Io le mie ultime 12 ore vorrei passarle con Oscar Giannino, Luca da Treviso. Lo comunicheremo a Giannino. Andrei a mangiare in un ristorante 3 stelle e spenderei un botto tra vino e cibo. Ma perdonami, ma perché 3 stelle? Facciamo 5 a questo punto. O forse tu sei uno di quelli che, guarda, si spende poco e si mangia bene. Riccardo, mi farei tutte le mie amiche, pure quelle brutte. Luigi da Treviso, farei la rapina del secolo, poi all'ultimo minuto restituisco il bottino. Così, ma che... Bonini fa gesti strani con le mani. Senza dubbio vorrei vedere com'è la Terra vista dallo spazio. E questi sono, diciamo, quelli con più fantasia. Andrei a Guglia di Valdobbiadene con un mio compare produttore e consumatore di prosecco. Un sigaro e vai. 800240024 349-238-6666. C'erano degli altri messaggi che non arrivati sul profilo Facebook di oggi. Ecco, Davide, qua c'è sempre un po' di rancore. Mi toglierei qualche sassolino dalla scarpa dicendo quello che penso di loro a molte persone, a cui altrimenti non potrei dirlo. Paolo, scriverai ai miei figli delle lettere da leggere ad ogni tappa importante della loro vita. Questa l'ho letta perché più tardi vi leggerò un pezzo tratto da un libro che racconta esattamente questa cosa. Però Daniele dice, Daniele da Ragusa, come ultimo giorno comprerei un bottiglione di vino ed andrei in giro per la città nudo come Adamo a cercare non una sola Eva. Io sono qui, pronto Daniele? Ciao Matteo. Ciao, grazie mille per essere qui, anche tu ovviamente. Ma grazie a te. Figurati. Daniele, cosa fai a Ragusa nella vita? Io studio. Che cosa studi? Nautico. L'istituto nautico? Sì, sì. Ma quindi sei giovane? Sì, sì. Quanti anni hai? 19. Perché ti viene da ridere, Daniele? C'è qualcosa che mi devi dire? No, assolutamente, complimenti per la trasmissione. Ah, ok, no, ma non era questo che intendevo, però ti ringrazio. Senti, dimmi esattamente, tu ti compreresti un bottiglione di vino e andresti in giro completamente nudo? Sì, sì. Senti, sei fidanzato, Daniele? No, non proprio. Cosa vuol dire non proprio? No, non sono fidanzato. Niente, Daniele, cioè, tu, Daniele, ho la sensazione che tu sappia qualcosa che io non so e che tu mi stai nascondendo. Senti, quante volte ti sei ubriacato e sei andato in giro nudo per la città? Oh, vabbè, dai, non tante volte. Senti, dimmi cosa stai studiando in questo momento. No, adesso è nulla. Perché stavi ascoltando la radio? Sì, sì. Ma tu ascolti abitualmente Radio 24 oppure... Sì, sì, tutti i giorni ascolto la tua trasmissione. No, dico, a parte la mia, ascolti, diciamo, no, la radio... No, nient'altro, nient'altro. Vabbè, la prendo come un'esclusiva. Daniele, quindi io mi segno questa, bottiglione di vino e a cercare non una sola Eva, mi sembra di capire. Ok, sì. Okay. Ti lascio ai venti. Ma cosa si studia al nautico? Sì, si studia un po' la navigazione. Senti, facciamo ad esempio, che differenza c'è tra un'imbarcazione da diporto e una nave? E una nave? Dai, non umiliarmi davanti a te. Vabbè, Daniele, ma è l'ultimo anno questo. Sì, c'hai sì. La maturità? Sì, sì. Niente, Daniele, io continuo a pensare che tu mi nascondi qualcosa, ma ti lascio proprio per quello. Grazie mille, ciao Daniele. Ciao a te. Ciao. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi siamo su una scrivania, di notte, con la luce accesa, c'è la mano di una ragazza, immagino, di una giovane ragazza, che tiene un portamine, una matita portamine, e sottolinea un libro fotocopiato. Ma Il vero protagonista di questa foto è un gatto che sembra enorme, visto che è tipo 20 volte la mano della ragazzina, che fissa la macchina fotografica e credo sia esattamente seduto nel punto in cui lei dovrebbe studiare. Marta Sicilloni, 28 anni. Peter è qui sui miei libri a farmi notare che è ora della pausa per me e della papà per lui. Io sono qui. Beh, evidentemente la mano di questa ragazza porta benissimo alla sua età, visto che credevo fosse una ragazzina. Invece Marta ha 28 anni. Io sono qui, @radio24.it, per mandare la foto del luogo in cui vi trovate. 28 anni, che è comunque una ragazzina, come mi ricorda Paolo Corleone dall'altra parte del vetro, visto che anche la nostra Viola ha 25 anni, ma è come se ne avesse 15 per tutti noi. 800240024. Allora, facciamo subito un piccolo mea culpa, ovviamente un'errata corrige, visto che le tre stelle non sono le tre stelle degli alberghi, perdonate la mia ignoranza, Tano mi prenderebbe a scappellotti, Tano è il mio vicino di casa ristoratore, perché sono le tre stelle Michelin, ovviamente, che è il massimo, altro che spender poco, mi scrive Franchi da Milano. Però se aveste solo 12 ore davanti, Marco, chiamerei di fretta un prete e gli direi: padre, non mi interrompa che abbiamo poco tempo. Fabrizio, comprerei un paio di scarpe il più a punta possibile. Qua c'è un mondo, ragazzi, perché in quelli che comprano le scarpe a punta evidentemente c'è una mancanza di vergogna che Fabrizio ha, e quindi dice: io in quelle ultime 12 ore me ne frego, mi piacciono le scarpe a punta e non me ne vergognerei. Chiusa in un'enoteca a bere le migliori bottiglie di vino insieme al mio uomo e fra un sorso e l'altro sesso. Nadia da Bergamo. Alessandra? No, perdonatemi, Andrea di Livorno. Andrei dalla mia ex collega Alessandra a dirle che mi piace un casino da sempre. Dai, forza, non devi avere 12 ore davanti. È già che è la tua ex collega, Andrea. Poi sei di Livorno. Grande intraprendenza. Chiedere scusa a tutti quelli a cui ho fatto dei torti. Tre martini cocktail, non di più, perché se devo andarmene lo voglio fare con la voglia di martini. Anche questo non è male, cioè voglio comunque continuare ad avere voglia di martini. Una telefonata e poi cercare di finire Super Mario Galaxy. Stefano, alla fine basta veramente poco. 800240024, andiamo a Latina, da Miriam. Pronto Miriam? Sì, ciao, ciao. Matteo, come stai? Sto bene. Dove sei? Sono in un posto bello, sono appena arrivato a trovare il mio nipotino che è bellissimo, che c'ha 9 mesi, e ero in macchina prima quando ho chiamato. Brava, senti, però tu faresti una cosa molto precisa, mi sembra, se avessi davanti sì, solo le ultime 12 ore, qual è? Sì, se io dovessi pensare che tra le prossime 12 ore dovessi morire, vorrei dare un messaggio a mio fratello Marco, che è uno stronzo, gli vorrei dire. Ah, benissimo. Che... Ma ci puoi anche perché spiegare... Perché non ti parla. Perché non ti parla più? Sì. Perché non ti parla più? Beh, è una storia lunga, non mi va neanche di raccontare, però gli vorrei solo dire un grande stronzo. Basta. Va bene, Mira, e due, ti ringrazio. Senti, da quant'è che non vi parlate più? Qualche anno. Cioè, tipo... Io ho un nipotino bellissimo e sono tanto felice, però ogni tanto penso pure a mio fratello. Eh beh, immagino. Ma quindi, oltre a dirgli che quella roba, tu magari hai voglia di dirgli qualcosa, tipo fatti sentire? Beh, non proprio, perché è una persona particolare che vive in un mondo tutto suo, quindi oltre che dirgli questa parolaccia. Insomma. Ma sta a Latina anche lui o sta da un'altra parte? No, sta a Roma, in provincia. Ah, quindi vicino anche, volendo? Sì, proprio... abbastanza. Chi dei due ha meno voglia di vedere l'altro? Non lo so. No, cioè, perché non sai quanta poca voglia abbia lui rispetto a te? Sì, infatti. Va bene, Miriam, sento che ti stai intristendo e quindi niente, ti lascio col tuo nipotino. Nipotina. Grazie. Nipotino. Ciao Miriam, ciao. Grazie, buona giornata. Dov'era l'altro? 12 ore, troppo poche per fare qualcosa di buono. Troppe davvero per poter conservare un minimo di lucidità. Bene, non rimane altro che lasciarsi andare all'istinto e combinare tutto ciò che salta in testa. Senza limiti e pudori, questa è Elisa, che è la nostra ascoltatrice che scrive i romanzi fantasy. E quindi Metallo Rules. Andiamo a Michele da Monza, pronto Michele? Pronto, ciao Matteo. Ciao Michele, cosa faresti? Io non so se ti ricordi quel film americano, si chiamava Life. Life. Un padre in attesa del figlio scopriva di avere un tumore e di conseguenza sceglieva di fare un video per il proprio figlio. E tu faresti quella roba lì? Farei quella roba lì. Quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ne ha 2 e mezzo e un altro in arrivo. Tu ne hai un altro in arrivo? Sì, da, detta così sembrava che lui ne avesse un altro in arrivo, perdonami. Cosa fai, Michele, nella vita? Io consulente informatico. Oh, finalmente, da un sacco di tempo che non sentivo un consulente. Che consulenza hai fatto questa mattina? Questa mattina sto lavorando per Unicredit. Ecco. Da casa. Benissimo, ti ringrazio per aver fatto proprio il nome proprio bello, secco, così. Michele, esatto, mi segno il video per il figlio. Grazie mille, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Rimaniamo sempre da queste parti. Gianni da Milano, pronto Gianni? Pronto. Ciao, come stai? Ciao Matteo, bene. Anche tu faresti una cosa per il tuo figlio, figlia? Figlia, figlia. Sì, Nicole. Scusami? Nicole. Nicole, con la N di Napoli. Esatto. Quanti anni ha? 12. 12 anni. E cosa faresti con lei? La prenderei e andrei a vedere l'aurora boreale, perché gliel'ho promesso 3-4 anni fa. Ma tu l'hai già vista o semplicemente? No, l'abbiamo vista in televisione, non so se è un film o un documentario, e lei mi ha chiesto se esisteva veramente, io le ho detto di sì. E poi lì però è il casino a spiegarle... Esatto. Non so neanche come fare e dove andare. Ah, non ti sei preparato quindi? No, non mi sono preparato alle 12 ore finali, ecco. No, le 12 ore l'ho capito, ma non sei preparato a spiegarle come funziona l'aurora boreale? No. L'avevamo visto e qualcosa ricordavo. Sì, ma guarda, comunque lì National Geographic o Discovery Channel, tempo, se tu rimani fisso tempo 24 ore, sicuramente un documentario sull'aurora boreale ci passa. Infatti. Sono convinto. Grazie mille Gianni, buona giornata. Grazie a te, Matteo. Ciao. Passerei le ultime 12 ore a cercare una badante per la mia gatta. Attenzione, uno dice, è già qui. Però Giovanni aggiunge, anche se io lo so che lei mangia solo se ci sono io. Quindi la tua gatta, Giovanni, è destinata alla morte. Mi dispiace dirtelo con questa, però è così. Se mangia solo con te, anche se è una badante, o le fai una flebo. Andrei da una mia ex dicendole che al di là di tutto, come te nessuno mai, Massimiliano citando Moccia. No, che Moccia. Muccino. Andrei alla polizia e denuncerei tutti i pusher degli assassini che conosco. Mazza, quanti ne conosci? Adesso non posso perché ho troppo da perdere. Firmerei un sacco di cambiali facendo debiti milionari in banca per fare regali ai miei amici. Sentiamo, ce l'abbiamo tempo per un'altra telefonata. Sì, andiamo da Francesco da Padova. Pronto Francesco? Pronto, ciao Matteo. Dove sei che c'è un vento fortissimo? C'è vento forte, io in questo momento mi trovo a Stra, che è un vicino a Padova, paese vicino a Padova. E c'è vento a Stra? C'è vento. Senti, tu faresti una cosa ben precisa, spediresti una lettera. Sì, spederei una lettera che ho scritto, però non ho mai spedito. Quanto tempo fa? L'ho scritta nel 1982. Wow! Parliamo di 29 anni fa. 20, no, esatto. Che 29? Sì, 29, siamo nel 2011. 29 anni fa. Si può dire a chi l'hai scritta, cioè a chi è indirizzata? L'avevo scritta a una, l'ho scritta praticamente perché ce l'ho ancora, a una mia ex fidanzatina, diciamo, una ragazza che avevo conosciuto a scuola, insomma, non ho mai potuto dirle come sono andate le cose, perché poi nella vita si cambia, il militare e tutto quello che è venuto dopo, insomma. E come sono andate le cose, Francesco? Non ci siamo più visti, dopo 30 anni l'ho risentita per telefono perché ho visto il suo indirizzo email in internet, ci siamo parlati per 5 minuti ed è tornato, siamo tornati indietro di 30 anni. Ma senti, ma lei cosa fa? Lei non lo posso dire, altrimenti diciamo che okay. lavora nell'agricoltura. Ma però avete modo di vedervi? No. Non abbiamo modo di vederci perché lei abita in provincia di Treviso, io abito invece in provincia di Padova. Di Padova, ok. Ma lei sai se è sposata? Se... Sì, lei è sposata, ha 3 figlie, quindi... E qui la voce si incrina a dirgli le cose, ecco, ma sai, alla fine così si magari si ha più coraggio per dire quello che... E tu sei sposato, Francesco? Io sono sposato, sì. Ma senti, non ti ricordi tipo, non dico una riga, ma più o meno che cosa c'è scritto in quella lettera? Cioè non si può dire. Cioè che mi ricordo benissimo è un giro in moto che ho fatto, era la prima Vespa che mi compravo e praticamente sono andato, ci siamo trovati al suo paese E abbiamo fatto sto giro, che era un giro che è durato circa un paio d'ore, ma per me sono state le due ore, probabilmente saranno sempre le due ore più belle della mia vita, insomma. Io proprio mi piacerebbe rifare un giro in moto con lei. E dove la tieni sta lettera, Francesco? La tengo nascosta a casa. in mezzo ai trofei del militare, insomma, in mezzo alle cose mie personali del militare. In questa telefonata hai citato due cose, la lettera e il militare. Direi due cose che ti hanno molto segnato, Francesco. Due cose che ti hanno molto segnato, ma ti lascio andare, ti ringrazio per la telefonata. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Ciao Francesco. Basta con le telefonate perché vi voglio leggere un ultimo pezzo. Visto che moltissime delle telefonate, ma anche molti messaggi, riguardavano il futuro dei propri figli, ho ripreso in mano un libro che avevo già citato, credo, l'anno scorso. No, o forse quest'anno. Vabbè, l'anno scorso come anno solare. Ma anche chi se ne frega. È un libro che si chiama L'ultima lezione. La vita spiegata da un uomo che muore. Ed è la storia di questo Randy Pausch, che era un docente che ha scoperto di essere malato e che ha scritto un libro che poi è stata una lezione in realtà, che ha tenuto proprio per ci sono dei video su YouTube, li trovate, proprio per raccontare al mondo, ma in particolar modo ai suoi figli, chi era loro padre. Questo è uno stralcio preso da questo libro, che poi è una lezione, ed è un capitolo che si chiama Un modo per capire l'ottimismo. Dopo aver scoperto la malattia, uno dei miei medici mi ha dato un consiglio. Mi ha detto: è importante che ti comporti come se dovessi vivere a lungo. E io gli ho risposto: dottore, ho appena comprato una cabriolet e ho fatto la vasectomia. Cosa vuole di più? Vivo come se stessi per morire, ma al contempo sono pur sempre ancora vivo. Alcuni medici fissano le visite ai pazienti dopo 6 mesi. Per i pazienti è un buon segno. Significa che i medici ritengono che ci sia ancora tanto tempo. Ci sono malati che guardano la data della visita successiva e si dicono: ce la farò ad arrivare fin lì, e quando ci arrivo avrò buone notizie. Il mio approccio personale all'ottimismo è che, essendo uno stato mentale, aiuta a intervenire in modo tangibile per migliorare il proprio stato fisico. Se si è ottimisti è più facile continuare a cercare terapie più nuove vie. Mi piace il fatto che la vasectomia abbia un doppio valore, come anticoncezionale e come gesto di speranza nel futuro. Mi piace guidare la mia nuova cabriolet. Mi piace pensare di poter trovare il modo di passare alla storia come quell'uno su 1 milione che batte questa malattia all'ultimo stadio. È meraviglioso svegliarsi la mattina e fare pensieri positivi. Se i brutti pensieri sopraggiungono durante la giornata, mi tengo sempre una riserva di ottimismo. Voglio salutarvi con un pezzo che non ha a che fare con questa puntata e che riguarda proprio questo progetto che si chiama Racconto che vi racconta, che inizia al Salone del Libro giovedì 12 maggio 2011. Sono già arrivati dei racconti. La cosa che vi chiedo è: se avete voglia di scrivere una pagina e mezza, fatelo. Mi fa piacere averla, ed è proprio su quello che si basa un progetto a cui noi stiamo lavorando insieme a tutta la redazione. La cosa che vi chiedo però è che ci sia un episodio, cioè che ci sia una storia, perché i racconti che stanno arrivando a Io sono qui @radio24.it in gran parte sono elucubrazioni sulla vita, sulla propria biografia, mentre quello che vi chiedo è un episodio, un po' come succede in questo racconto che si intitola Il giovane uomo di Giovanni. Non andò molto lontano, il dolore tornò a tormentarlo e non poté fare a meno di fermarsi per una notte in un alberghetto trovato quasi per caso in una cittadina sconosciuta, la prima che incrociò appena fuori dall'autostrada. Il giorno successivo, dopo una notte insonne, se possibile stava ancora peggio. Telefonò all'ufficio del personale, chiese del direttore e gli spiegò il problema. Dall'altra parte della cornetta gli risposero che poteva starsene a casa, se proprio non se la sentiva di affrontare lo stage in quelle condizioni. Lasciò l'auto, prese il treno, scese a Milano, si fece accompagnare in taxi a casa e, appena aperta la porta, si fiondò sul letto e chiuse gli occhi. Dormì qualche ora. Sentì riaprirsi la porta di casa, vide sua moglie che, meravigliata dalla sua presenza, gli chiedeva che cosa fosse accaduto. Il giovane uomo le raccontò della sera prima, del viaggio interrotto, del dottore e del direttore del personale. Poi svenne. Questo è solo uno stralcio preso da questo racconto che si intitola Il giovane uomo. Ne sono arrivati altri e ve ne racconterò ancora altri. Io sono qui, @radio24.it, una pagina che racconti un pezzo di storia della vostra vita, un episodio, ma che sia uno, che racconta di voi. Grazie a Stefano D'Andrea, a Tiziano Bolini, a Paolino Corleoni e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?